Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata, in compagnia di, signore e signori, Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore. Quale sarà secondo voi il suo punto di vista sui tanti fatti di questi giorni? Per saperlo non perdete, per nessun motivo, Non ci sono più le mezze stagioni. Sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.